Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io su questo vi sfido, perché noi siamo pronti, abbiamo dimostrato che a noi poche cose fanno paura. Per cui se voi siete nelle condizioni di portare le carte e di sistemare ciò che è fermo da 10 anni, noi lo sblocchiamo. E cosa sblocchiamo? Cosa sbloccano? Cosa sblocca Renzi, il governo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori? Il ponte sullo stretto di Messina. Ogni tanto il mostro di Loch Ness riemerge dalle acque, naturalmente con i suoi sostenitori e i suoi detrattori. Ne parleremo qui Effetto Notte, visto che c'è questo rilancio. Oggi Renzi ne ha parlato in occasione di 110 anni di Salini in Pregilo, che è la grande impresa conosciuta per le grandi opere realizzate in Italia. E poi torneremo a parlare anche delle difficoltà della giunta romana, visto che un altro candidato all'assessorato al bilancio ha rinunciato, ha detto no grazie, ci sono un po' troppi problemi, e parla anche di beghe politiche all'interno del movimento. Molti altri temi, c'è il Consiglio dei Ministri che dovrebbe essere iniziato perché stasera devono discutere della legge di bilancio, quindi un sacco di temi importanti come sempre. Poi c'è anche il compleanno, i 40 anni di Totti, la Juventus in Champions League, la partita dovrebbe essere iniziata da circa un quarto d'ora. E voi, per interagire qui Effetto Notte, lo sapete ormai, c'è la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per i messaggi WhatsApp, che è il 349-238-6666, 349-238-6666. Prima il riassunto, come sempre, sempre della giornata, e poi cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti con i vari ospiti. Le aperture dell'Unione Europea, la Commissione Europea sarebbe propensa a concedere all'Italia più flessibilità per migranti e terremoto, disposta quindi a permettere un deficit del 2,3% per il 2017. Ponte sullo stretto, Matteo Renzi rilancia il progetto, creerebbe 100.000 posti di lavoro, dice, le opposizioni insorgono, propaganda elettorale per il referendum, dicono. Roma, anche il magistrato Tutino dice no alla sindaca Raggi per l'assessorato al bilancio, e sulla giunta capitolina Grillo chiede il silenzio ai portavoce del Movimento 5 Stelle. Presidenziali americane, Hillary vince i punti su Trump nel primo dibattito TV. Obama contro il tycoon dice è impreparato, non può fare il presidente. Colombia, il governo di Bogotà e le FARC, forze armate rivoluzionarie, firmano la pace ponendo fine al più lungo conflitto dell'America Latina, 52 anni e 220.000 morti. Processo grandi rischi bis, la procura chiede 3 anni per Bertolaso, venerdì la sentenza per l'ex capo della protezione civile. Salute, in Italia 1.000 nuovi casi di tumori al giorno, crescono tra le donne e in calo tra gli uomini. WhatsApp, il garante della privacy, apre un'istruttoria dopo le modifiche di fine agosto per Facebook. E per il calcio, per la Champions in campo la Juventus contro la Dinamo a Zagabria, domani tocca al Napoli, intanto auguri per i 40 anni di Totti da tutto il mondo. Partiamo quindi dalle aperture dell'Unione Europea sulla flessibilità. La Commissione Europea sarebbe propensa a concedere all'Italia più flessibilità per le emergenze dei migranti e il terremoto, disposta quindi a permettere un deficit del 2,3% per il 2017. E a proposito di conti, dovrebbe essere iniziato, adesso ci terrà tra poco conferma il nostro Vincenzo Miglietta da Roma, il Consiglio dei Ministri, soprattutto incentrato sulla legge di bilancio. Vincenzo? Sì, buonasera. Ai nostri ascoltatori. No, non è ancora iniziato, come sempre un po' di ritardo, il classico quarto d'ora accademico, però di fatto è tutto pronto, perché questa sera non si farà altro da parte del governo che aggiornare la nota del documento di economia e finanza. Vanno aggiornati i dati pubblicati in aprile, in funzione di che cosa? In funzione sostanzialmente della frenata che vi è stata nella crescita nel secondo trimestre dell'anno, quindi un'estate che ha visto il prodotto interno lordo di fatto non crescere come era nelle previsioni, quindi il governo rivede al ribasso tutti i dati macroeconomici di base, e questo dovrebbe portare poi a poter strutturare una legge di bilancio in funzione di questi nuovi dati previsti sia per il 2016 che per il 2017. Ma come dicevi giustamente da studio, la buona notizia per il governo dovrebbe essere questa apertura da parte di Bruxelles sulla flessibilità, quindi tenere fuori dal patto di stabilità le risorse per il sisma e le risorse per per i migranti, vedremo se questa sera vi saranno già dettagli sull'apertura di Bruxelles, ma soprattutto vedremo poi entro la metà di ottobre come questi numeri diventeranno poi parte della manovra economica. Già, grazie Vincenzo Miglietta da Roma. Ciao Vincenzo. Grazie. E dicevamo del ponte sullo stretto di Messina che torna protagonista, l'assemblea sui 110 anni del gruppo Salini in pregilo, Matteo Renzi rilancia quindi questa sfida sul completamento del ponte, opera da anni come sapete al centro di accesissime discussioni, creerebbe 100.000 posti di lavoro, assicura Renzi. Il presidente dell'anticorruzione Cantone dice i rischi di infiltrazioni e di corruzione non possono fermare le grandi opere pubbliche. ANAS, che è proprietaria della società Stretto di Messina, è pronta a ripartire, la politica però si divide, plaude Area Popolare che con Maurizio Lupi ricorda che il partito ha già presentato una proposta sul ponte, tempi stretti ora per l'arrivo in aula di questa proposta, ma le opposizioni insorgono e accusano quella di Renzi è solo propaganda elettorale per avere il consenso sul referendum. È intervenuta anche questa sera nella registrazione di martedì sulla 7 che dovrebbe iniziare più tardi la presidente della Camera Boldrini che dice se dovessi decidere le priorità per me non sarebbe quella del ponte, sarebbe rilanciare il lavoro al sud e poi mettere in sicurezza il nostro territorio. E su questo tema torneremo, come dicevo, più tardi qui a Effetto Notte, e così come sulla difficile situazione di Roma, dove piove sulla giunta un'altra tegola, perché anche il magistrato contabile Tutino dice no alla sindaca Raggi per l'assessorato al bilancio, e sulla giunta capitolina Grillo ordina o chiede, a seconda dei punti di vista, il silenzio e portavoce del Movimento 5 Stelle. Vittima delle faide interne al Movimento 5 Stelle, anche Salvatore Tutino rinuncia. Indicato come probabile assessore al bilancio, il magistrato contabile ritira la sua disponibilità. Da 20 giorni sono sulla graticola, contro di me troppe critiche infondate. Sono diventato oggetto di una contesa, gli attacchi da parte di esponenti del partito che sostiene la giunta minano i presupposti per fare un buon lavoro, spiega il consigliere della Corte dei Conti, accusato di far parte della casta, da grillini di primo piano come Roberto Fico. Una nuova tegola per la sindaca Virginia Raggi, che continua comunque ad ostentare tranquillità. Era una delle persone che stavamo esaminando, ma il nome arriverà presto. Ripresa la guida politica del Movimento 5 Stelle, anche Beppe Grillo interviene sul caos a Roma per mettere un silenziatore alle polemiche interne. Con un tweet, l'ex comico si rivolge ai portavoce pentastellati, chiedendo loro di non rilasciare nei prossimi giorni dichiarazioni né interviste sulla situazione in Campidoglio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci oltreoceano con le presidenziali americane. Si stimano intorno ai 100 milioni di telespettatori statunitensi che nella notte italiana, alle 3 della nostra notte, hanno seguito il primo dibattito presidenziale tra Hillary Clinton e Donald Trump. Il dibattito ha dimostrato come Donald Trump non ha la tempra per l'incarico di presidente e manca della necessaria preparazione, ha detto l'attuale presidente americano Obama. Il giorno dopo, Donald Trump, visibilmente insoddisfatto per l'esito del primo dibattito presidenziale, promette che nel prossimo round sarà più duro, attaccando uno dei taloni d'Achille di Hillary Clinton, lo scandalo Lewinsky e più in generale la non esattamente irreprensibile condotta familiare del marito Bill ai tempi della Casa Bianca. Argomenti che lasciano intravedere la rabbia per uno scontro nei fatti perso anche 6 punti. Non a caso Hillary, riprendendo la campagna elettorale, ha parlato di una grande notte, ha accusato Trump di non avere detto la verità e soprattutto, di fronte alla minaccia di un dibattito che rischia di rivangare episodi del passato, ha replicato «faccia pure la campagna che vuole». Lo smacco per Trump è stato tale che Hillary già ironizza sul fatto che al prossimo dibattito si possa ritrovare da sola sul palco, ipotesi peraltro avanzata da uno dei più importanti consiglieri dello stesso Trump, Rudy Giuliani, che ha duramente attaccato il moderatore Lester Holt, accusandolo di parzialità. Ad dare manforte alla candidata democratica è arrivato il vicepresidente in carica Joe Biden, che ha pesantemente criticato Trump sulla sua ancora misteriosa dichiarazione dei redditi prima di riferire alcuni colloqui con i principali alleati internazionali terrorizzati, secondo Biden, dall'idea di avere il magnate come prossimo presidente. Lui non rappresenta gli Stati Uniti, ha chiosato. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E si sono aggravate le condizioni dell'ex presidente israeliano Shimon Peres, 93 anni, ricoverato all'ospedale di Tel Aviv dal 13 settembre dopo un ictus. I familiari sono stati chiamati dai medici, si sono riuniti al suo capezzale per una sorta di ultimo saluto. In Colombia il governo di Bogotà e le FARC, le forze armate rivoluzionarie, firmano la pace, ponendo fine così al più lungo conflitto dell'America Latina. 52 anni e 220.000 morti. Il trattato firmato a Cartagena rappresenta l'inizio di una nuova era politica del Sud America è la prima conseguenza immediata della pace che l'Unione Europea ha deciso di sospendere le FARC dalla lista delle organizzazioni terroristiche con la revoca temporanea delle sanzioni prevedevano il blocco dei beni e il divieto di mettere fondi a loro disposizione. Ora le FARC si potrebbero trasformare da gruppo guerrigliero a un vero e proprio partito politico. Di nuovo in Italia col processo Grandi Rischi bis, la procura chiede 3 anni per l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, unico imputato in questo processo per il mancato allarme del sisma del 2009 all'Aquila. Bertolaso, allora capo del Dipartimento della Protezione Civile, è accusato di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Decisiva ai fini dell'accusa l'intercettazione della telefonata nella quale l'ex capo della protezione civile disse che avrebbe inviato la commissione Grandi Rischi all'Aquila per una grande operazione mediatica perché diceva: vogliamo rassicurare la gente, e questo 5 giorni prima del terremoto del 6 aprile. La sentenza è attesa per il 30 settembre. Bertolaso non ha rinunciato alla prescrizione, come invece aveva promesso in campagna elettorale quando era candidato sindaco di Roma, e di fatto quindi molto probabilmente interverrà la prescrizione su questa sentenza. La cronaca: la polizia ha trasmesso una prima informativa alla procura di Napoli sul caso della ragazza di Pozzuoli che non sta andando a scuola dopo la diffusione in chat di un suo video hard. L'informativa del commissariato di Pozzuoli sarà trasmessa alla sezione della procura che si occupa di reati informatici. Vi sarebbero alcune persone denunciate dalla polizia per violazione della privacy e diffamazione, però ancora nessuno è iscritto nel registro degli indagati. E parliamo di salute. Sono in aumento i casi di tumore tra le donne, in calo tra gli uomini. Al cancro si sopravvive in percentuali sempre maggiori, tuttavia le statistiche evidenziano un preoccupante aumento di nuovi casi fra le donne, mentre i big killer colpiscono sempre meno gli uomini. Stando ai dati raccolti nel volume Numeri del cancro in Italia 2016, presentato oggi all'editorium del Ministero della Salute, quest'anno sono stimati 50.000 nuovi casi di tumore del seno. Per gli uomini invece si assiste al fenomeno opposto, con un calo del 2,5% ogni mese. Profondo divario tra l'altro tra nord e sud. Da un lato al meridione persistono i fattori protettivi e una bassa incidenza di alcune neoplasie, dall'altro però c'è una minore attivazione degli screening, e questo spiega i valori di sopravvivenza inferiori al sud rispetto al nord. E poi nel mondo meno di una persona su 10 ha la fortuna di respirare aria buona. Il 92% della popolazione mondiale vive in aree in cui l'inquinamento atmosferico supera il limite massimo stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi la Cina è il paese, a questo proposito, che paga il prezzo più alto per le polveri sottili in termini di vita, con oltre 1 milione di decessi in un solo anno. Parliamo anche di WhatsApp. Il garante per la protezione dei dati personali della regione di Amburgo in Germania ha vietato a Facebook di raccogliere nuovi dati dei circa 35 milioni utenti tedeschi di WhatsApp e di cancellare quelli già raccolti. Il garante sostiene che gli utenti tedeschi di WhatsApp devono poter decidere da soli se collegare il loro account a Facebook. E sulle nuove norme per l'uso dei dati personali di WhatsApp è intervenuto anche il garante della privacy italiano, che ha avviato un'istruttoria. Poco più di un mese fa, in agosto, gli utenti di WhatsApp vennero informati di un cambiamento significativo relativo all'uso dei loro dati. Il numero di telefono e altre informazioni personali sarebbero state condivise con Facebook, che di WhatsApp è proprietario dal 2014 e che in questo modo può accedere ora a circa 1 miliardo di profili da usare per marketing e pubblicità mirata. All'inizio di settembre l'antitrust europeo aveva annunciato un'indagine, alla quale ora si aggiunge quella del garante italiano della privacy. L'autorità italiana chiede a WhatsApp e Facebook di conoscere la tipologia di dati che verrà condivisa e pone altre domande. Ad esempio, verranno passati anche i dati degli utenti che non hanno un profilo Facebook e perché la finestra per dire di no dura solo un mese? Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia dal cinema: dopo anni di convivenza, il regista Ferzan Özpetek ha sposato Simone Pontesilli, il suo compagno. Lo rivela il settimanale Chi nel numero in edicola domani. La cerimonia si è svolta a Roma nella sala consiliare del Campidoglio, davanti a una quindicina di invitati. Dopo il sì, la coppia se n'è andata via in scooter, mentre arriva Dario Ricci per la Champions con la Juventus in campo. Dario. Sì, Juventus in campo, siamo alla mezz'ora di gioco a Zagabria. Juventus in vantaggio sulla Dinamo, decide finora la rete al 24esimo di Miralem Pjanic. C'è stato un lancio in profondità dalle retrovie di Bonucci. Sigali e Schiedenfeld hanno pasticciato, il pallone si è inarcato e ne ha approfittato Pjanic, che con un destro morbido ha beffato il portiere croato Semper. Dinamo Zagabria decisamente inferiore a Bianconeri, ma che pochi istanti fa, il 26esimo, ha sfiorato comunque il pareggio proprio con un colpo di testa di Schiedenfeld che ha colpito la traversa della porta di difesa da Buffon. Per quanto riguarda le altre partite della serata, rapidamente i risultati: Real Madrid in vantaggio a Dortmund per 1-0, 1-0 dell'Leicester sul Porto, 1-0 anche finora dello Sporting Lisbona sul Legia Varsavia. Grazie Dario Ricci, poi naturalmente ci aggiorniamo più tardi sulla Champions. Intanto vi aggiorno sui vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Clotilde dice: ma è pazzo Renzi, il ponte di Messina è la messa in sicurezza del territorio, ma è più pericoloso di Berlusconi, ha un ego ipertrofico, mi fa paura. Insomma, appunto, cominciano a scrivere sostenitori e detrattori. Dice per esempio questo ascoltatore: era ora, scrive così molto lapidario. E poi ringrazio Luigi da Padova per l'apprezzamento. Un altro ascoltatore dice: buonasera Roberta, per il ponte i posti di lavoro indicati da Renzi, che ha detto che sarebbero 100.000, sono erroneamente enormemente sopravvalutati, mentre il costo previsto è sottovalutato. Meglio sbloccare i lavori utili nel territorio. Molti comuni in Calabria e Sicilia hanno l'acqua potabile razionata, questo è vero, bisogna dire. Dice Giuseppe D'Arvena: troppi morti per alluvioni e terremoti. Ne parleremo tra poco di questo rilancio del ponte di Messina da parte di Renzi. Intanto viabilità e poi di nuovo insieme. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano con voi e subito anche Dario Ricci, perché ci deve aggiornare sulla partita di Champions. Dario? Sì Roberta, perché la Juventus ha raddoppiato quando siamo al 34esimo a Zagabria sulla Dinamo, 2-0 per i bianconeri. Al 24esimo, come vi abbiamo già raccontato, la rete di Pjanic. Al 30esimo è arrivato il raddoppio di Gonzalo Higuaín, il lancio in profondità di Khedira. Ingenui i difensori creati a non provare a mettere in fuorigioco Higuaín, che a quel punto ha avuto vita facile a controllare di petto e a siglare con un facile destro il raddoppio. Quindi a Zagabria quando siamo al 35esimo, Dinamo 0, Juventus 2. Grazie Dario, e naturalmente la soddisfazione con la voce di Dario Ricci. Noi adesso parliamo invece di politica e ne parleremo tra pochissimo con Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti se non avete acceso la radio puntualmente alle 21. La giunta di Roma senza pace, anche Tutino dice no alla Raggi, Grillo chiede il silenzio stampa al Movimento 5 Stelle, tensioni col governo. Renzi rilancia il ponte sullo stretto, crea 100.000 posti di lavoro, dice, le opposizioni insorgono e la definiscono propaganda elettorale per il referendum. Arriva il DEF, il deficit 2017 al 2,3%, uno spazio di 8 miliardi di flessibilità lo concederebbe l'Unione Europea all'Italia. E poi per le presidenziali americane Hillary vince ai punti su Trump nel primo dibattito TV che c'è stato nella notte ora italiana, e Obama contro Trump dice impreparato, non può fare il presidente. 1.000 casi al giorno di tumore in Italia, in aumento tra le donne, la malattia invece in diminuzione per gli uomini, in 3 milioni sono guariti. I dati di WhatsApp e Facebook, il garante apre un'istruttoria, Soro dice preoccupa la nuova policy, cioè il nuovo modo di operare, l'azienda dice rispettiamo la legge. Shimon Peres in fin di vita, l'ex presidente israeliano, si prepara la famiglia all'addio, sono gravissime le sue condizioni. E poi Totti che compie 40 anni e il mondo lo festeggia. Una filiera è quella la Napoli-Bari-Lecce. L'altra, caro Pietro, è una sfida a voi, che è quella di completare il grande progetto di quella che Del Rio chiama la Napoli-Palermo per non chiamare Ponte sullo Stretto, ma che è di fatto il collegamento tra Napoli e Palermo in un'operazione che porti non soltanto posti di lavoro, come è sacrosanto, 100.000 posti di lavoro, ma che sia utile. Perché tu devi fare una struttura che sia in condizioni di togliere la Calabria innanzitutto dall'isolamento nella quale è, e poi che consenta di tornare anche ad avere una Sicilia più vicina e raggiungibile. Così ha detto Renzi, quindi a volte ritornano, dicevo, perché riemerge il mostro di Loch Ness, nel senso che riemerge a tratti dalle acque, in questo caso dalle acque dello stretto, e non viene detto come l'esistenza del mostro c'è o non c'è, ma si può fare o non si può fare a seconda che si abbia una posizione favorevole al sì oppure al no. A rilanciarlo oggi, avete sentito, è stato il presidente del Consiglio Renzi, che è intervenuto all'Assemblea per i 110 anni di Salini in Pregilo, che è l'impresa simbolo delle grandi grandi opere realizzate in Italia. Il ponte sullo stretto è un'opera, come sapete, che è al centro da anni di un accesissimo dibattito e che si riaccende quindi ogni volta che qualcuno lo rilancia. Quindi anche dopo questa uscita del Presidente del Consiglio, naturalmente sostenitori e detrattori, ogni volta che viene evocato si riaccende questo dibattito. È intervenuto anche il Presidente dell'ANAC, dell'Anticorruzione Cantone, che ha detto: i rischi di infiltrazione e di corruzione non possono fermare le opere pubbliche. Alfano, che è alleato di governo di Renzi, nonché ministro dell'Interno, ha detto: bene Renzi sul ponte sullo stretto, l'area popolare chiederà l'immediata calendarizzazione del nostro disegno di legge sblocca ponte, visto che era una proposta già del nuovo centrodestra. Grillo invece, Movimento 5 Stelle, il leader, dice: il menomato morale, riferendosi a Renzi, oggi ha detto che è pronto ad aprire i cordoni della borsa di soldi pubblici dei cittadini per far ripartire il progetto del ponte sullo stretto, un'opera costosissima, dice Grillo, twitta Grillo, inutile e in piena zona sismica. Insomma, ogni volta naturalmente chi è contrario e chi è favorevole. Anche voi sulla pagina Facebook di Effetto Note al 349-238-6666 state scrivendo molto su questo tema. Alessandro, per esempio, dice: va benissimo il ponte sullo stretto, ma una sola semplicissima condizione: che nello stesso istante in cui viene aperto il cantiere del ponte si aprano tutti gli altri migliaia di cantieri sui lavori che servono sia in Sicilia che in Calabria per quanto riguarda la viabilità interna e la prevenzione del rischio idrogeologico. Matteo dice: ha senso solo se inserito all'interno di un più vasto e più costoso piano per infrastrutture e logistica che coinvolga i porti, le ferrovie, le autostrade siciliane, o si ribalta l'isola o ci sarà una cattedrale nel deserto. Alessandro, dal 1990 al 2011 solo per il progetto, ma di che parliamo? Facessero piuttosto una legge dove si imponga che le varianti non devono superare il 10% dell'importo. Dice: ma perché non vengono mai perseguiti i professionisti che stimano i costi? E lo dico da professionista. Una professionista, faccio intervenire allora Barbara Fiammeri. Cara Barbara. Buonasera, buonasera. Insomma, di input ne ha avuti molti anche dagli ascoltatori, Sì, sì, e devo dire che i nostri ascoltatori sono molto attenti e anche preparati. Modestamente, vero? C'è da dire che per quanto riguarda il ponte, l'uscita di Renzi, se vogliamo dargli anche una lettura politica, e credo che non si possa non darla, viene all'indomani della data del referendum, che ha segnato un po' l'avvio di questa campagna elettorale. Poi, per entrare più nello specifico, è anche presumibile che l'uscita di Renzi sia legata anche ai costi che comunque il ponte ha comportato, nel senso che comunque ci sono state delle penali e per cui sono già centinaia di milioni di euro che sono andati a coprire, diciamo, la mancata realizzazione, il blocco del ponte. Come multe, come sanzioni, no? Sì, perché comunque l'impresa si era impegnata sulla realizzazione di un'opera e quindi aveva sostenuto dei costi. Barbara, perdonami, c'è Laura Boldrini, Presidente della Camera, sulla 7. Sentiamo cosa dice. Appena aperto bocca, l'applauso. Noi abbiamo avuto figure alte delle istituzioni e della politica. Posso pensare al presidente Pertini, alla figura di Aldo Moro, alla figura di Berlinguer. No, non sta parlando del ponte, perché so che ha fatto anche questa affermazione, c'erano le agenzie. Senti, fra l'altro, Barbara, quindi tu elencavi anche appunto i soldi già spesi, eccetera, ma soprattutto dove si troverebbero i soldi per farlo in questo momento, visto che si parla, si chiede all'Europa più flessibilità, c'è l'emergenza migranti? Ma in realtà io riferisco quanto ho sentito rispetto a oggi e anche quanto hanno detto le imprese, cioè Salini Pregilo, ovvero che è un ponte che si finanzia attraverso il sostegno di investitori esteri che loro sostengono sarebbero prontissimi a intervenire. È evidente però che queste opere hanno un senso, come ricordavano appunto i nostri ascoltatori, se collegate a un contesto generale, insomma. Cioè, il ponte ha senso se tu hai già realizzato l'alta velocità fino a Reggio Calabria, altrimenti non ha senso, perché arrivare a Reggio Calabria in treno, adesso in auto, è più facile perché la Salerno-Reggio si è sbloccata finalmente, però indubbiamente siamo in pieno deserto, insomma, se pensiamo che Milano si raggiunge da Roma in 3 ore, per arrivare a Reggio Calabria ce ne vogliono 7, quindi Ma anche all'interno della Sicilia, comunque, Barbara, Messina-Trapani mi pare che ci vogliano circa 7 ore. Qualche ascoltatore ricordava che in varie località siciliane c'è ancora l'acqua razionata, no? Sì, però sì, d'accordo. Cioè non è che un'opera esclude altre. È chiaro che una grande opera è più facile che finanziatori esterni, cioè imprese esterne, intervengano per finanziare una grande opera, piuttosto che quelle opere più piccole che in realtà sono più all'attenzione, diciamo, degli enti locali e del governo centrale. Quindi una cosa non dovrebbe escludere l'altra in un paese normale, tant'è che nei paesi normali si fanno sia le opere piccole, si riasfaltano anche le strade, ma questo non esclude magari di fare grandi opere. Come dicevano gli ascoltatori, senti, però WWF e Italia Nostra ancora sono assolutamente contrari, dicono in una delle aree più elevato rischio sismico del Mediterraneo, in una delle zone di maggiore pregio per la biodiversità, tutelata dalle norme comunitarie, è semplicemente un'idea sconsiderata, sì, dicono. Sì, allora, ovviamente io faccio la cronista politica e non sono assolutamente in grado di dare dei giudizi. Delle valutazioni su questi aspetti. Dico solo che ricordiamoci che il Golden Gate di San Francisco mi sembra si sia su una faglia molto pericolosa da quelle parti, che in Giappone ci sono ponti che collegano isole, insomma, cioè, non è che anche nelle aree sismiche non si costruiscono queste grandi opere. Ripeto, non ho assolutamente la competenza per potermi esprimere in merito, però ecco, mi limito soltanto a vedere altrove che appunto grandi opere di queste dimensioni sono state fatte e insomma il rischio sismico c'è elevato quanto quello italiano, sicuramente quanto quello nello stretto di Messina. Senti, Cesare, per esempio, tra gli ascoltatori sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dice: non capisco come i piddini eletti con i voti contro Berlusconi, ricordate lo smacchiamo il giaguaro di Bersani, ora stiano facendo tutte quelle cose per cui definivano il Berlusca il male d'Italia. Vabbè, insomma, diciamo che un po' evoca, diciamo, delle ambizioni, delle aspirazioni berlusconiane, un po' questa cosa. Però andrei subito invece sul caso Roma di nuovo, perché c'è un altro problema per quanto riguarda la giunta Raggi. Si è ritirato anche il magistrato contabile Tutino, che doveva essere il candidato all'assessorato al bilancio, che è vuoto da diverso tempo. Vogliamo sentire che cosa ha detto la sindaca Raggi a questo proposito? Ma guardi, parla di, immagino, del presidente Tutino, era comunque tra le persone che abbiamo visto, tra i possibili candidati. A breve avrete un nome. Grazie. Come va Barbara, quindi questa vicenda? Si vede che nessuno si vuole prendere questa patata bollente dell'assessorato al bilancio. Diciamo, ma qui più che nessuno si vuole prendere la patata bollente, mi sembra un po' di rivedere il caso De Dominicis, no? Cioè noi abbiamo avuto le dimissioni di Minenna un mese fa ormai, giusto un mese fa, e da allora c'è stata questa rincorsa spasmodica di ricerca di un assessore al bilancio che non trovano. E ancora una volta i 5 Stelle si sono, come dire, si sono suicidati da soli, cioè si sono suicidati perché di fatto dalle parole di Tutino, cioè De Dominicis era stato escluso perché non è in regola con le regole pentastellate, Tutino oggi ci dice che era 20 giorni che era sulla graticola perché accusato da altri alti esponenti del Movimento 5 Stelle come Roberto Fico, Carla Ruocco, di essere appartenente alla casta, in quanto i 5 Stelle 3 anni fa avevano presentato contro di lui, Ruocco e Di Battista avevano presentato contro di lui un'interrogazione parlamentare. Quindi è una guerra intestina ancora una volta quella tra un gruppo e un altro gruppo dei 5 Stelle. Spero che quello che ha detto la sindaca, cioè ovvero che a breve avremo un assessore al bilancio, questa volta sia vero, anche perché ricordo sempre che se manca un assessore al bilancio difficilmente Roma riuscirà ad approvare il bilancio entro l'anno, cosa su cui si sarebbe già dovuto iniziare a lavorare, e quindi ci sono grossi rischi perché quando non si approva un bilancio c'è il commissariamento. Comunque la situazione è delicata, visto che Grillo ha chiesto ai suoi portavoce del Movimento 5 Stelle di non parlare con i giornalisti del caso Roma. Perché in questi giorni, appunto, anche noi oggi abbiamo pubblicato, la Perrone ha fatto un'intervista alla Ruocco, in questi giorni hanno continuato a essere molto critici su questa scelta. Pensiamo che Tutino era stato presentato dalla Raggi alla sua giunta, quindi non era uno dei nomi, era il nome. Poi Raggi è intervenuta anche sulle Olimpiadi dicendo: chiediamo al governo di impegnare i fondi che erano destinati alle Olimpiadi comunque, perché le carenze che abbiamo sulle infrastrutture sono quotidiane e quei soldi possono essere girati direttamente su Roma anche senza Olimpiadi. Le ha risposto il sottosegretario alla presidenza De Vincenti, che dice: i fondi andranno a Parigi e Los Angeles, perché evidentemente, lui dice, tutto il giro di investimenti che ci sarebbero stati, anche stranieri, insomma non ci possono essere neanche dei fondi evidentemente che il CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, mette a disposizione, no? Insieme ai soldi che il paese stesso deve spendere, il paese ospitante. Perché c'è un doppio finanziamento, non è che uno Stato prende, può, tra l'altro c'è anche un problema di finanziamento, non è che lo Stato centrale può dare i soldi che vuole a Roma, insomma, cioè non funziona così. E quindi vedremo quindi, se ci sarà un patto per Roma, anche come c'è stato il patto per Milano. C'è stato anche per Napoli, c'è stato per Bari. Aspettiamo anche il patto per Roma. Per la capitale. Grazie Barbara Fiammeri. Ciao. Grazie Barbara. A voi, buonasera. Buonasera a te. Vogliamo sentire un pezzettino di Crozza sulla 7, che dice? Durant. Ci prendiamo gli applausi sempre. Più che Duran potreste fare i non Duran. Comunque. Sta parlando da D'Alema, mi sembra che sia presente. No, non applaudite, aspetta, che volevo salutare D'Alema. Buonasera D'Alema. Senta D'Alema, mi scusi, com'è andata la vendemmia quest'anno? No, perché lei adesso si occupa di vino, giusto? Quindi lei è qui come viticoltore, no? Certo che dall'ulivo al vigneto... Per lei è stato uno scatto di carriera importante. Bene, su questo direi che ci possiamo brevemente lasciare. Ci risentiamo tra poco con altri temi. 349-238-6666, il numero per WhatsApp e SMS, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Sono Giovanni Minoli. Tutti i giorni, Mix 24, in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. State ascoltando un programma offerto da... Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Riprendiamo quindi con gli altri temi. Abbiamo parlato lungamente dei fatti politici, in particolare del rilancio da parte di Renzi del ponte sullo Stretto di Messina. Abbiamo parlato anche della situazione a Roma con questo assessore al bilancio che proprio non si trova. E dopo il riassunto della giornata passiamo adesso a un altro tema, passiamo al DEF tra pochissimo. Intanto vedevo sulla pagina Facebook di Effetto Notte a 349-238-6666, ancora tanti messaggi sulla storia del ponte. Dice per esempio questo ascoltatore: scusate, sono ignorante, mi aiutate a capire perché un ponte dovrebbe essere finanziato da investitori esteri? Che vantaggi avrebbero? Tra poco lo chiediamo al vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Rioli insieme ad altre cose, però intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Le aperture dell'Unione Europea, la Commissione sarebbe propensa a concedere all'Italia più flessibilità per migranti e terremoto, disposta quindi a permettere un deficit del 2,3% per il 2017. Ponte sullo Stretto, Matteo Renzi rilancia il progetto, creerebbe 100.000 posti di lavoro, dice. Le opposizioni però insorgono, propaganda elettorale per il referendum, dicono. Roma, anche il magistrato Tutino dice no alla sindaca Raggi per l'assessorato al bilancio e sulla giunta capitolina Grillo chiede il silenzio ai portavoce del Movimento 5 Stelle. Presidenziali americane, Hillary vince ai punti su Trump nel primo dibattito TV. Obama contro il tycoon dice impreparato non può fare il presidente. Colombia, il governo di Bogotà e le FARC, le forze armate rivoluzionarie, firmano la pace ponendo fine al più lungo conflitto dell'America Latina, 52 anni e 220.000 morti. Processo grandi rischi bis, la procura chiede 3 anni per Bertolaso, venerdì la sentenza per l'ex capo della protezione civile. Salute, in Italia 1.000 nuovi casi di tumore al giorno, crescono tra le donne, in calo tra gli uomini. E vediamo subito se c'è un aggiornamento per quanto riguarda la partita della Juventus a Zagabria. 2-0 prosegue a vantaggio della Juventus. Saluto Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, al quale vorrei chiedere un po' di lumi sulle misure che starà prendendo il Consiglio dei Ministri per la legge di bilancio, però se vuoi rispondere anche a quella domanda dell'ascoltatore, hai voglia? Sì, va bene, buonasera e ciao, buonasera a tutti. Alberto. La questione è questa, che per esempio nell'ipotesi iniziale della società mista pubblico-privato Ponte sullo Stretto, che avrebbe dovuto gestire poi il ponte, i privati partecipavano con degli investimenti a fronte di ritorni, e i ritorni sono nei pedaggi. Nei pedaggi, anche se qualcuno dice i pedaggi non sarebbero questo numero incredibile, almeno da, diciamo, coprire poi le spese di chi ha investito. No, infatti il problema è trovare l'equilibrio, appunto. Infatti le stime di traffico attese su un ponte di quel tipo non sono così alte, diciamo la verità. Infatti il pedaggio medio era stato calcolato con un importo molto alto, tanto che rendeva abbastanza antieconomico l'investimento, a dire la verità, perché avrebbe scoraggiato ulteriormente il traffico. Quindi su quale tipo di formula usare per gestire poi l'investimento bisognava ancora lavorare, effettivamente. Già, senti, ma adesso passiamo invece al Consiglio dei Ministri. Non ho ancora capito se è iniziato prima o non è iniziato, era in ritardo. Comunque si parla della legge di bilancio, no? Al centro di questo si parla del documento economico finanziario, sì, DEF, quello che serve, sì, a preparare la legge di bilancio. Ci spieghi la differenza? È un documento di programmazione dove non ci sono esplicitate le misure, poi la legge di bilancio diventa la legge vera e propria che passa in Parlamento, anche il DEF passa in Parlamento. E ci sono dentro misure relative alle pensioni, sì, con l'uscita anticipata, il taglio dell'IRES per le imprese, i bonus per gli albergatori, no? Se non sbaglio. Sì, soprattutto c'è, diciamo, queste sono le misure a cui sta lavorando Padoan con i suoi collaboratori per mettere insieme appunto la manovra. Soprattutto però in questo DEF è importante capire quali sono le grandezze di riferimento della crescita e del deficit e del debito su cui poi ancorare l'eventuale manovra di bilancio. Sembra di capire che il governo prenda atto del rallentamento dell'economia sia su quest'anno sia per il prossimo. Quest'anno probabilmente si chiuderà tra lo 0,8 e lo 0,9%, quindi al di sotto dell'1% la crescita italiana, e per il prossimo anno la crescita è stimata intorno all'1%. Questo naturalmente impone anche di modificare la stima del deficit, e tanto è vero, ed è l'oggetto poi più delicato di questa discussione di oggi, della discussione che l'Italia sta facendo con l'Europa. Probabilmente si andrà a un deficit effettivo intorno al 2-3%, a fronte di quello che però vale ai fini statistici per Bruxelles, che sarà intorno al 2%. Siccome Bruxelles in un primo tempo ci chiedeva di arrivare all'1,8, sostanzialmente ci dovrebbe venire assicurata una flessibilità di bilancio, come si chiama in questi giorni questo tipo di manovra, di quasi mezzo punto percentuale, che vuol dire circa 8 miliardi, che sono quelli che il governo chiede di non computare ai fini del deficit, perché servirebbero per 4 miliardi per gestire i migranti, la questione dell'emergenza migranti, e per 4 miliardi per gestire la questione del terremoto. Quindi una buona notizia. È una buona notizia. Sì, se è confermata, è una buona notizia. Se è confermata. Sentiamo solo questo passaggio di Renzi e mi dici cosa ne pensi. Ieri era a Quinta Colonna, il programma Quinta Colonna in televisione, e ha parlato di pensioni e di raddoppiare la quattordicesima. Sentiamo. Tra i 40, e dipende da quanto è la pensione minima, perché è una percentuale. Quelli da 500 stanno anche sulle 35-40 euro, quelli da 750 stanno più sui 50 euro. E queste sono le minime. Queste, noi stiamo cercando di tirare su questo limite, lo vedremo da qui alla stabilità. Il nostro obiettivo sarebbe arrivare il più possibile vicino ai 1000 euro, vediamo se ce la facciamo. Okay. A questi noi raddoppiamo la quattordicesima. Quindi, quelli che oggi prendono una quattordicesima, anziché prendere 40 euro, ne prenderanno 80 euro al mese. Ci saranno i soldi, Alberto? Ma ecco, queste sono quelle cose che rendono poi la manovra difficoltosa, diciamo la verità, perché la manovra dovrebbe scegliere pochi pochi obiettivi importanti destinati soprattutto allo sviluppo, alla crescita, agli investimenti, quindi dovrebbe fare come in parte era stato fatto capire, insomma, di concentrare le risorse sugli investimenti pubblici in grandi infrastrutture e quant'altro e sull'alleggerimento del costo del lavoro per consentire alle imprese di investire e ai lavoratori di percepire più salario netto, come sono per esempio i premi di produttività, cioè la defiscalizzazione dei premi di produttività. Questo tipo di provvedimenti assomiglia molto agli 80 euro famosi, che in realtà poi quei grandi effetti macroeconomici non hanno avuto, quindi bisogna stare molto attenti a fare provvedimenti tutti sulla domanda. Grazie Alberto Rioli. Grazie. Buon lavoro Alberto. Grazie. Ciao. Intanto Serena scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: tutto in una volta, sento odore di propaganda, effetto slogan. Beh, insomma, comunque si sa che quando si entra in campagna elettorale poi appunto bisogna vedere, come si diceva, se ci sono le risorse. E poi un ascoltatore che dice, ah no, è Angela, dice: l'unico ponte che c'è è quello tra il primo Renzi e Renzi sparafrottole di oggi, secondo Angela. Quindi evidentemente secondo lei c'è un Renzi di prima e un Renzi di adesso, ha cambiato tenore, ha cambiato strategia evidentemente per Angela. Ci sentiamo tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Continuano tantissimi i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, ma abbiamo tante cose ancora da raccontare. Intanto vi ricordo quali sono velocemente le notizie più importanti. Appunto, il rilancio da parte di Renzi del ponte sullo Stretto di Messina, dice, assicurerebbe 100.000 posti di lavoro. E poi la giunta di Roma senza pace, anche Tutino, il magistrato contabile, dice no alla Raggi per l'assessorato al bilancio, e Grillo chiede il silenzio stampa al Movimento 5 Stelle, tensioni quindi con il governo. E poi arriva il DEF, ne abbiamo appena parlato, il documento di economia e finanza, con l'Unione Europea che sarebbe propensa, la Commissione Europea, a permettere un deficit per il 2017 al 2,3% per l'Italia. E per le presidenziali americane, Hillary che vince ai punti su Trump nel primo dibattito TV, e Obama che attacca il tycoon, dice, impreparato e non può fare il presidente. Europa 24 notte. Parliamo della notte europea dei ricercatori, arriva anche quest'anno la notte bianca europea dedicata al mondo della ricerca. L'appuntamento è per venerdì 30 settembre in 300 città di tutta Europa, di cui ben 32, quasi un decimo del totale, italiane, da Milano a Roma, da Catania a Trieste, ma anche centri più piccoli come Frascati e Quartus Sant'Elena. Obiettivo: diffondere la cultura scientifica e orientare i giovani, spesso poco attratti da queste discipline. Sentiamo il servizio di Alessandra Schepisi. 22 milioni senza lavoro in Europa, di cui quasi il 20% giovani. La disoccupazione giovanile è un problema drammatico, non c'è dubbio, eppure c'è un paradosso. Secondo la Commissione europea sono 2 milioni i posti di lavoro vacanti, 2,3 entro il 2025. Impieghi in campo scientifico e tecnologico che non vengono coperti per mancanza di competenze. Le facoltà scientifiche infatti si svuotano soprattutto nell'Europa del Sud. I ragazzi non sono attratti dalle materie scientifiche. Una ricerca della rappresentanza in Italia della Commissione europea insieme al consorzio scuola.net ha rivelato come ben l'80% dei ragazzi tra i 16 e i 19 anni non si avvicina a queste discipline perché non le ama o perché le ritiene troppo difficili. E allora quale può essere la chiave per invertire questa tendenza? Sempre secondo il rapporto, il ruolo fondamentale spetta alla scuola. Un docente di matematica appassionato e coinvolgente può avvicinare a queste materie più di chiunque altro. Altri fattori che possono contribuire sono i riferimenti culturali, le serie TV, le missioni spaziali, capaci di accendere passione e ispirazione per lo studio di discipline che al contrario appaiono asettiche. Ed è anche in questa chiave, cioè per sensibilizzare i ragazzi allo studio della scienza, della tecnologia e dell'informatica, che è nata la campagna della Commissione europea U-Factor, iniziativa che partecipa anche in occasione della Notte europea dei ricercatori il 30 settembre, appuntamento promosso dall'Unione europea per diffondere la cultura scientifica, facendo incontrare i cittadini con i protagonisti del mondo della ricerca. Evelina Jelenkowska, della rappresentanza italiana della Commissione europea. Sì, abbiamo pensato che raccontargli le storie delle persone, il famoso storytelling, delle persone che hanno studiato scienza e che oggi fanno dei lavori veramente stimolanti, interessanti, divertenti, è il miglior modo per fargli riflettere su questo e prendere in considerazione la carriera scientifica. Quindi nasce così. Siccome volevamo rivolgerci a questo target di età 16-19, abbiamo pensato anche che dobbiamo adattare i nostri mezzi, e quindi abbiamo concepito la campagna come campagna social media. C'è stato un gioco Facebook, abbiamo lanciato un concorso fotografico su Instagram, premiato poi con dei premi al Giffoni, abbiamo fatto vari sondaggi con il nostro partner terascuola.net, che ci ha accompagnato e ci sta accompagnando in questo percorso fin dall'inizio. Abbiamo fatto un contest con CNR per le scuole, che si chiamava In Factor, quindi un po' anche scuola alternanza lavoro, e adesso a Padova il 30 settembre chiudiamo la campagna. È sicuramente un tema importante, lasceremo aperto il sito www.eufactor.eu, non sarà alimentato così regolarmente, ma se ci sarà la richiesta penso che lo lasceremo come una piazza di dialogo, che era questo l'obiettivo della campagna, quindi non tanto informare quanto suscitare il dibattito, e questo credo che siamo riusciti a fare. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Intanto c'è Massimo D'Alema sulla 7 che dice: il ponte sullo stretto da Renzi è un omaggio agli 80 anni del Cavaliere, perché tra due giorni Berlusconi compie 80 anni. Dario Ricci, invece, a proposito di numeri, come siamo con la Juventus in Champions? Siamo sempre sul 2-0, cara Roberta. Decidono finora, siamo al 51esimo di gioco, i gol nel primo tempo di Pjanic al 24esimo e il raddoppio di Higuain al 30esimo. In questo istante cambia un risultato importante, perché sempre nel gruppo della Juventus passa in vantaggio il Siviglia sul Lione per 1-0, quindi spagnoli che ora sono a 4 punti, proprio come i bianconeri, dovesse finire così. Dario, tra l'altro, sempre proprio i numeri, 40 anni di Totti, oggi vedo che arrivano gli auguri da Messi, a Bolt, a Federer, da tutto il mondo. Eh sì, davvero una grande festa. Il Pepe ce l'ha messo la Iena Ilari, no? Come ben sappiamo, c'è perché moglie. con la sua intervista Spalletti è stato bravo a rispondere a tono, regalando proprio a Ilari anche questo, il CD di Mia Martini con Piccolo Uomo. Bellissimo, tra l'altro, perché lei l'ha definito un piccolo uomo, diciamo una canzone di altro tenore. Ma infatti, insomma, però, vabbè, è stata azzeccata la risposta di Spalletti, che è riuscito a tirar fuori un sorriso da una situazione davvero imbarazzante. Archiviata per il momento, grande festa in Castello Romano, che tra l'altro aveva ospitato già le nozze di Ilari e Totti e Francesco nel 2005. 300 quindi, ospiti, vedo 300. Spalletti con regalo per Ilari, quindi è arrivato. Anch'io ero tra gli invitati, ma non volevo perdermi effetto notte. Giustamente, allora ho preferito declinare. È così che ci si comporta per le priorità, si capisce qual è la priorità. Grazie Dario Ricci. Grazie a te. Ciao Dario, e con questo 2-0 per la Juventus direi che ci possiamo congedare. Vedo ancora tantissimi vostri messaggi, ringrazio anche i vari apprezzamenti. Stavo guardando ancora, per esempio, Marco che dice: mi sembrava di averla già ascoltata questa del ponte. Insomma, molti altri messaggi, molti che dicono evocativa di una proposta che aveva già fatto Berlusconi. Vedremo come andrà avanti questa storia, se di nuovo si inabissa il mostro di Loch Ness o se rimane in superficie. Ci risentiamo alle 22:00.